smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoprar, di tanti moti, d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornar sempre là d'onde son mosse. Uso alcuno, alcun frutto, indovinar non so. Ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento, avrà fors'altri, a me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata, che la miseria tua credo non sai, quanta invidia ti porto, non sol perché d'affanno quasi libera vai, ch'ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, tu sei queta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sì che, sedendo, più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale, me s'io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse, s'avess'io l'ale da volar su le nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale. Fine del componimento 23.